di shaba le hodi pesele le wa etele di pile marena di kereken boni palamente le fase kamukana palamente le fase kamukana. Mbo, haiya.